San Giustino de Jacobis, primo vicario apostolico dell'Abissinia, e che l'episcopato di quel paese, e quel paese l'Abissinia sarebbe l'Etiopia, definì il padre della Chiesa d'Etiopia, nacque a San Fele. San Fele in provincia di Potenza il 9 ottobre del 1800. Giustino era il settimo dei 14 figli di mamma Giuseppina e il papà, che si chiamava Giovan Battista. E proprio sotto la guida della mamma crebbe nell'amore di Dio, nella carità verso i fratelli, con una sollecitudine particolare verso gli ultimi, i più poveri. Aveva già nel cuore un vivo amore per Gesù, visto che una delle devozioni a lui più care era fare ogni giorno, pensate, per almeno mezz'ora, la meditazione sulla passione. Nel frattempo andò a scuola a Napoli, dove il papà, nobile decaduto, aveva stabilito la sua residenza. Qui, essendo grande il desiderio di una vita profondamente cristiana, anche se giovane, scelse come padre spirituale un religioso, un santo religioso carmelitano, che lo seguì in modo meraviglioso, molto, molto attento, e negli anni, la sua unione con Gesù si rafforzava ogni giorno. Insomma, comprese il nostro San Giustino, che aveva 18 anni, di non essere fatto per il mondo, ma di servire Dio nella Chiesa. E il suo padre spirituale, quindi questo carmelitano, gli aveva parlato appunto della congregazione della missione, e lui volle entrare proprio in questa congregazione, e nel noviziato sorprese tutti per la regolarità di vita, ma anche per la sua umiltà, la cordialità verso tutti, verso i superiori, ma anche verso i suoi amici, i suoi confratelli. Sappiamo che questa congregazione era stata fondata da San Vincenzo de Paoli nel 1625 per l'evangelizzazione dei poveri, ma anche per la formazione del clero, che allora era davvero tantissimo, era impreparato. E proprio inizialmente lo scopo era evangelizzare soprattutto la gente di campagna. Veramente non c'era nessun rudimento di sapere a livello catechistico, non sapevano cosa fossero i sacramenti, quindi era veramente una situazione desolante. E San Vincenzo de Paoli aggiunse a questo anche quella dei ritiri per esercizi spirituali, quindi per approfondire una vita santa, l'insegnamento anche nei seminari, le missioni, e poi la direzione delle figlie e delle dame di carità, fondate, come sappiamo, con Santa Luisa di Marillac. Ma non ultimo, volle fare l'assistenza anche agli schiavi e a chi allora era condannato ai lavori forzati. E il nostro San Giustino era affascinato, dobbiamo dirlo, dalla figura di questo gigante della carità che era San Vincenzo. San Vincenzo che considerava l'amore di Gesù e l'amore per i poveri inseparabili, ed esortava i suoi discepoli non solo ad agire, ma anche a pregare. E diceva non solo pregare, ma anche agire. Naturalmente anche allora non mancavano obiezioni, anche da parte di alcuni suoi figli spirituali, ed egli, perché c'erano delle obiezioni, ed egli rispondeva loro: ma mi direte, vi sono tante cose da fare, tanti uffici in casa da compiere, tanti incarichi in città, in campagna, lavoro dovunque, e bisogna lasciar tutto da parte per non pensare che a Dio? No, dice San Vincenzo, ma bisogna santificare queste occupazioni cercandovi Dio e compierle per trovarvelo, piuttosto che per vederle fatte, quindi fare tutto per Dio. Nostro Signore, dice San Vincenzo, vuole che prima di tutto cerchiamo la sua gloria, il suo regno, la sua giustizia. Perciò, diceva, facciamo tesoro della vita interiore, della fede, della fiducia, dell'amore, dell'orazione, della confusione che proviamo, delle umiliazioni, delle fatiche e delle pene, soffrendole per Dio, nostro Supremo Signore. Egli vuole che gli presentiamo continuamente l'offerta del servizio e del desiderio, perché si stenda alla regalità della sua bontà, si procurino grazie alla Chiesa e virtù alla compagnia, cioè alla congregazione. E concludeva: una volta ben fondati nel ricercare la gloria di Dio, siamo certi che il resto verrà da sé. E qui, tornando al nostro San Giustino, in quel periodo era in noviziato, era giovane, faceva fatica a concentrarsi anche nello studio. Inoltre, ritenendosi profondamente indegno del sacerdozio, diceva: io sarò sempre un missionario molto piccolo. A lui andava bene anche essere solo fratello coadiutore, ma per obbedienza ai superiori dovette invece ben prepararsi nella casa di Oria, in provincia di Lecce, per il sacerdozio. E anche qui fu un esempio. Gli stessi compagni che anni dopo testimoniarono dissero di averlo sempre visto fervoroso, umile, occupato a leggere e a pregare. E finalmente arrivò, cari amici, anche per lui il grande giorno. Si sentiva profondamente emozionato ed è il giorno in cui riceveva l'ordinazione sacerdotale che ci fu a Brindisi nel 1828. Dopo essere diventato sacerdote, San Giustino iniziò subito a predicare le missioni al popolo in molte città della Puglia con un amore e una carità senza limiti e ovunque raccolse abbondanti frutti spirituali. Anche quando fu mandato dai superiori a Monopoli per la fondazione di una casa, non trascurò la catechesi, il confessionale, la cura dei malati, anzi, ad alcuni di loro ottenne la guarigione con un segno di croce. Qui già si vedeva la presenza del Signore in modo forte, nel suo cuore e nella sua anima. E quando l'ammalato che era guarito lo ringraziava, lui, con fare sorpreso e anche severo, diceva che non c'entrava nulla con quello che era successo, ma piuttosto di andare davanti al tabernacolo a ringraziare Gesù. Era, dicevamo, un apostolo meraviglioso, e proprio questo suo amore per Gesù era ricambiato da lui a volte con grazie particolari. Pensate, una sera d'inverno, prima dell'omelia, fu informato che un suo penitente, era un suo penitente benestante, ma molto malato, stava per morire. Al termine del sermone partì subito in compagnia del giardiniere del morente, ma la lanterna di quest'ultimo si spense a causa di una raffica di vento. Come orizzontarsi nel buio presto della campagna, poi non è che ci fossero delle luci, no? C'era da perdersi d'animo, ma San Giustino cosa fece? Intonò l'Ave Maris Stella. Insomma, la testimonianza ci dice che una luce straordinaria lo avvolse e lo accompagnò fino al capezzale del malato. Dicevamo, all'istante una luce straordinaria lo avvolse e lo accompagnò fino al capezzale del malato. Lo confessò e con grande meraviglia e consolazione dei familiari rassicurò tutti che presto sarebbe guarito. Interrogato poi riguardo alla strana luce che gli aveva rischiarato il cammino, il santo rispose che forse si trattava di una meteora. Intanto nel 1834, aveva 34 anni, fu eletto superiore della casa di Lecce. Nella sua umiltà si scherniva di questo titolo, non voleva essere chiamato così. Al contrario, era felice quando poteva prestare un servizio ai suoi confratelli. Viveva, dicevamo, anche in grande povertà e gli abiti nuovi che a volte gli venivano consegnati li donava al primo confratello che ne aveva bisogno. Anche a tavola era molto parco e mangiava il minimo necessario. Di notte dormiva poco per dedicarsi allo studio, ma soprattutto alla preghiera. Pregare era la sua gioia e a questo aggiungeva spesso anche le penitenze a cui si sottoponeva per amore di Gesù. E gli offriva tutto per la salvezza di tante anime, soprattutto di quelle persone che conosceva e che non volevano accoglierlo nel loro cuore. La domenica poi era un giorno particolare. Radunava intorno a sé i novizi per ben prepararli, esortandoli ad essere luminosi testimoni del Signore. Faceva loro capire l'importanza della vita religiosa, ma anche l'enorme responsabilità di ognuno di loro verso le anime che sarebbero state loro affidate, dicendo: «Figliuoli miei, chi non è chiamato da Dio allo stato ecclesiastico, è meglio che faccia il soldato anziché il prete». Era il primo, dicevamo, ma si faceva ultimo. Infatti, benché fosse superiore, non rifuggiva dal pulire la casa, lavare le stoviglie, rifare i letti dei novizi, suonare la sveglia, assistere i malati. Benché amasse il ritiro e fosse cagionevole di salute, conoscendo bene il valore di ogni anima, non trascurò mai le missioni al popolo. in particolare il prezioso ministero della confessione con il quale portò tante anime a Dio, e non ultimo la direzione spirituale dove aiutò tanti fratelli a camminare sulla retta via. E proprio per la sua fedeltà e il sacrificio che non risparmiava per amore di Gesù, lui stesso il Signore benedisse le sue fatiche apostoliche con eventi straordinari. A Monteroni, in provincia di Lecce, una donna povera ma molto devota e di grande bontà si curava di assistere i malati portando una parola di speranza e di consolazione con una carità e una fede esemplari. Accompagnava i morti alla sepoltura, soprattutto quelli che erano stati abbandonati da tutti, e insegnava il catechismo ai bambini. Comunque, voi per invidia o gelosia, ad un certo punto iniziò ad essere aspramente criticata da alcuni paesani. Forse, pensiamo, faceva troppo, rimproverandoli indirettamente della loro inerzia verso chi era nel bisogno. Ma questa cosa la addolorò profondamente a tal punto che pensò forse era meglio fermarsi. Proprio in quei giorni San Giustino era in quel paese per predicare una missione e alcune persone, proprio del paese, dispiaciute per quello che stava accadendo, vollero raccontargli la cosa. Allora lui fece chiamare la donna, invitandola a non lasciare tutto quel bene, quel tesoro di bene che stava facendo, perché era una grande tentazione, e le disse di far cadere tutte quelle parole malevoli che le venivano rivolte, di non dare adito alle maldicenze e al disprezzo, disse, di questi stolti, in vista del regno dei cieli, anzi le promise che 3 giorni prima della morte egli sarebbe andato a confortarla in qualunque luogo si fosse trovato. La donna, rincuorata da quelle parole, continuò così nel suo apostolato e da quel giorno lo fece per circa 20 anni, poi si ammalò gravemente. Ricordando la promessa che il santo le aveva fatto, chiese poco prima di morire al figlio di avvisarlo che non le restava ormai molto da vivere e che lo attendeva come lui aveva promesso. Ma come fare ad avvertirlo, cari amici, se in quel tempo il nostro santo si trovava in missione in Etiopia? Non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, quindi il problema sembrava insormontabile. Ma la speranza di questa donna che stava per morire non si spense, infatti non fu delusa. Nei giorni a seguire, durante una notte, una grande luce le sfolgorò dinanzi gli occhi e in questa luce vide Padre Giustino. Alle sue grida accorse il figlio, al quale disse: è venuto il padre Giustino secondo la promessa, mi ha consolata, mi ha benedetta e mi ha lasciato sotto il cuscino 10 tarì, allora era meno di mezza lira, per le esequie, dicevamo era una donna molto povera. Il figlio, pensando che la madre delirasse, perché insomma dice questa ormai è in delirio, prese l'involto, lo aprì sorpreso ma anche sconcertato perché vide il contenuto. Questo successe però 20 anni dopo, quindi come vedremo lui negli anni andrà poi in Etiopia. Torniamo invece al tempo della casa di Lecce. Dalla casa di Lecce il nostro santo in quegli anni fu trasferito a Napoli, perché assumesse a Napoli la direzione del noviziato. Siamo nel 1836, lui andrà in Etiopia circa 10 anni dopo, e allora a Napoli aveva 36 anni. Successe che proprio in quell'anno in città scoppiò il colera. Senza perdere un attimo, con tutti i suoi novizi, accorse senza paura del contagio e lo stesso assicurò ai giovani, prodigandosi così fino allo sfinimento per aiutare tantissime persone. Dalla mattina alla sera si vide instancabile al capezzale dei malati, nelle carceri, nelle case, negli ospedali, e lo si vide persino curare la sepoltura dei morti. Purtroppo allora al flagello del colera non c'era scampo, era la malattia epidemica dell'Ottocento come la peste lo era stata nei secoli precedenti. Temutissimo dalle popolazioni, sia per i morti che faceva, che non erano poi in numero maggiore rispetto a quelli di altre malattie per l'epoca che erano omicidiali come il morbillo, la tubercolosi o la malaria, Il colera era però temuto perché era rapido, violento e allora anche misterioso, infatti non si capiva da dove arrivava. Era presente da secoli questa epidemia, soprattutto in alcune regioni dell'India, e poi nel tempo si diffuse a macchia d'olio in Asia, in Africa e poi in Europa, a partire dal secondo, terzo decennio del secolo XIX. In Italia in particolare le epidemie di colera nell'Ottocento furono tre, infatti la prima ci fu dove era presente San Giustino, quindi siamo nel 1836, l'altra poi arrivò nel 1854, l'ultima nel 1884, ma nel 1836 a Napoli e nel Regno delle Due Sicilie ci furono circa 160.000 morti e questa epidemia colpiva soprattutto le popolazioni delle grandi città. E Napoli e Palermo trovò terreno fertile anche per la scarsa alimentazione della popolazione, soprattutto la più povera, mangiava poco o nulla, se non addirittura moriva di fame, ma anche per le gravi carenze strutturali dell'assetto urbano, cioè abitazioni piccole, senza luce e senza aria, in tanti in una stanza, fognature inesistenti o carenti, acquedotti inquinati, strade sporche, insomma una cosa era un dramma in questo senso. E dicevamo che a Napoli, quando San Giustino era diciamo in questa fase, quindi siamo nell'ottobre del 1836, alla fine dell'anno, dopo diversi mesi, insomma, si cercò in tutti i modi, con la preghiera, con le penitenze, di debellare questa epidemia che cessò, alla fine dell'anno cessò. Ma inaspettatamente, già nell'aprile del 1837, arrivò addirittura con una virulenza ancora maggiore, aggravato anche dall'inquinamento dell'acqua potabile. Pioveva sul bagnato, perché la crisi si aggravò ancora di più, perché i napoletani, ma anche le altre popolazioni colpite, specialmente quelle più povere, reagirono con ribellione e diffidenza sia verso lo Stato che verso i nobili, anche i medici, gli ospedali. Insomma, si diffuse la credenza che i nobili o il re volessero avvelenarli. In molti luoghi scoppiarono tumulti che in vari casi sfociarono in vere e proprie sommosse. Si faceva che gli amici quello che si poteva, ma era comunque poco, perché dell'epidemia non si conosceva in quel momento nulla, cioè la medicina era ancora approssimativa e i pochi ospedali che funzionavano e che potevano dare qualche aiuto erano mal visti. Insomma, pensate, la situazione era tale che re Ferdinando II, proprio a causa delle sommosse e dei tumulti, dovette revocare l'ordine di ricovero obbligatorio per chi era colpito dal colera. E dicevamo, dopo tanta lotta e con tanta preghiera, l'epidemia finalmente cessò. Ci fu una grande processione in cui a Napoli venne portata, diciamo, in processione la Madonna, una statua della Madonna che San Giustino de Jacobis portò e è ancora oggi presente nella chiesa di Napoli, nella chiesa della casa di San Vincenzo. E alla fine, diciamo, di tutto questo, il nostro santo, per tutto quello che aveva dato, ne uscì provato, insomma, era affaticatissimo, molto ammalato anche, non si era risparmiato in nulla, dando un esempio meraviglioso. E qui, dopo alcuni mesi, proprio per la stima che, diciamo, gli alti vertici della sua congregazione avevano di lui, fu eletto superiore della Casa dei Vergini, che era il centro della provincia napoletana. Qui lui, che era molto attento a questa cosa, comprese che c'era un po' di lassismo all'interno della Casa Napoli. Quindi il suo primo desiderio fu di promuovere l'osservanza della regola, ma soprattutto nel contempo coltivare l'umiltà e la benevolenza verso i confratelli, ma con l'esempio, facendosi lui stesso servitore, pur essendo il superiore. Lui, uomo di grande preghiera, sempre raccolto in Dio, predicava la buona parola, portando alla conversione tanti fratelli che poi cambiavano vita. Confessava assiduamente, conosceva bene il valore enorme di questo sacramento che rappacificava con Dio tanti cuori a volte lontani. Componeva liti, portando una parola di pace e di speranza e ricordando che la vita è un soffio e che vale la pena viverla nell'amicizia. Assisteva i malati, in particolare i più poveri che non si potevano permettere nemmeno un minimo di sostentamento. Aiutava gli ultimi donando quello che poteva. Faceva poi scuola ai ragazzi per prepararli ad una vita migliore, a far prendere coscienza della loro preziosità, anche della loro dignità di persone, perché proprio loro potessero un domani creare una società migliore. Ma non si fermava qui. Quando riusciva, arrivava anche negli incontri di preghiera per fare catechesi. E proprio a Napoli la sua vita cambiò. Infatti qui ricevette l'invito del cardinale Franzoni, prefetto di propaganda fide, di andare in Etiopia come prefetto apostolico. E l'invito lui lo accolse con piacere perché si sentiva chiamato a recarsi dove maggiore era il bisogno di far conoscere il Vangelo e dove il rischio era grande. E qui, dopo 4 mesi di penoso viaggio, in compagnia di padre Montuori, il nostro santo arrivò in Etiopia. Allora, in alcune zone si poteva anche rischiare la vita, per porre le basi di una chiesa nuova in Etiopia. C'era naturalmente la chiesa copto-ortodossa, che si era staccata dalla chiesa, dalla comunione, diciamo, con la Santa Sede da tanti anni, come da tanti secoli. C'erano anche una buona parte musulmana. Devo dire che è un po' strano parlare dell'Etiopia così, perché visto che il cristianesimo in Etiopia ha origini antichissime, fa un po' strano. Infatti noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, leggiamo come uno dei primi convertiti al cristianesimo fu proprio un etiope, battezzato dall'Apostolo San Filippo. Se guardiamo gli Atti 8:26-40 leggiamo questa cosa. Dopo questo, la prima evangelizzazione di questo territorio iniziò con il santo patrono di questo paese, che era San Frumenzio, siamo nel IV secolo, che venne ordinato vescovo da Sant'Atanasio di Alessandria. Però ci fu un problema, cioè verso la fine del V secolo ci furono contrasti con la Santa Sede, sia di tipo dottrinale che di altra natura. Quindi tutto questo portò alla rottura allo scisma, diciamo, all'allontanamento da parte di questa chiesa dell'Etiopia dalla chiesa cattolica. E ci furono anche dei tentativi di riavvicinare la chiesa ortodossa etiope al cattolicesimo, avvenne molti secoli dopo, siamo nel 1555 con i gesuiti. E dobbiamo anche dire che la loro missione iniziale ottenne successo. Infatti nel 1626 il cattolicesimo divenne religione di Stato, ma già 6 anni dopo iniziarono le persecuzioni contro i cattolici, quindi era una continua schermaglia. Tornando al nostro santo, quando arrivò fu accolto a Massawa, siamo nel 1839, da padre Giuseppe Sapete, e in questa sua nuova vigna all'inizio San Giustino lavorò nella città di Adua con il permesso del re del Tigre, Ubie si chiamava questo re, ma non essendo allora permesso farlo era costretto a celebrare la Santa Messa di notte chiuso in casa. Era talmente innamorato della Santa Messa, pensate, e la gustava così appieno nel cuore che spesso impiegava 2 ore nel celebrarla. E qui lui arrivò nel 1839, ma già nel 1840 fu per lui un anno di ritiro in questo immenso paese, pensate 3 volte e mezzo l'Italia, diviso tra la preghiera, in cui faceva accorato affidamento alla Vergine Santa, lo studio delle 3 lingue etiopi e alcune opere di carità. Ritenne comunque necessario vivere conforme ai loro usi, vestiva perciò di bianco come un monaco del paese, dormiva per terra sopra una pelle di mucca o sopra un canapè di paglia e mangiava riso, polenta, legumi e molto raramente carne. Proprio nella casa in cui viveva nella città di Adua, cominciò a tenere delle conferenze per chi desiderava ascoltarlo e in una di esse espose così il programma della sua vita di missionario, in cui, dobbiamo dire, fece traboccare con coraggio e senza timore, io lo definirei il suo trattato d'amore per i fratelli di quella terra. Fece una, guardate, è una testimonianza meravigliosa. Disse così, parlando agli etiopi in quel momento, disse San Giustino: la porta del cuore è la bocca, la chiave del cuore è la parola. Quando apro la bocca e parlo, vi mostro il mio cuore. Venite e vedete il grande amore che lo Spirito Santo ha posto per gli abissini nel mio cuore. Io ero nel mio paese e ivi seppi che vi erano dei cristiani in Etiopia. Concepii grande amore per essi e mi venne desiderio di vederli ed esternare loro il mio amore. Parenti e amici piansero allorché partii, pensando al lungo e pericoloso viaggio che difficilmente mi avrebbe permesso di vederli di nuovo e abbracciarli. Chiusi gli occhi per non vedere quelle lacrime, chiusi gli orecchi per non udire quei gemiti, asciugai le mie lacrime e partii. In mezzo ai pericoli del mare, del deserto, dicevo sovente nel segreto del cuore: Signore, fa che io veda prima i miei fratelli abissini e poi muoia. Il Signore, dice San Giustino, mi ha esaudito ed eccomi in mezzo a voi. E posso ora, quando a Dio piacesse, morire contento. Spenderò per voi i giorni che Dio mi accorderà di vita, procurando il vostro bene. Per voi pregherò, per voi studierò, per voi lavorerò, per voi sopporterò fatiche e pene. Se sarete afflitti, vi consolerò in nome di Gesù Cristo. Se sarete poveri, vi soccorrerò. Se sarete nudi, vi coprirò con le mie vesti. Se avrete fame, vi darò fino all'ultimo mio tozzo di pane. Se sarete malati, verrò a visitarvi e ad assistervi. E se vorrete che io vi insegni quel poco che so, lo farò con gran piacere. Non ho più niente sulla terra, essendo lontano dai parenti, dagli amici, dalla patria. Qui non ho più che Dio e il popolo d'Abissinia. Per essi vive, per essi vivo, per essi batte questo cuore. Se volete che io predichi, confessi e celebri nelle vostre chiese, lo farò. Io sono cristiano e prete di Roma, e amo i cristiani e i preti dell'Abissinia più dei parenti e degli amici che ho lasciati per venire qui da voi. Sono già 4 mesi che mi trovo nel vostro paese. Voi mi avete visto, mi avete conosciuto, avete conversato con me. Dite se ho recato scandalo o danno ad alcuno. Non lo credo, ma finora non ho fatto niente di bene per voi. Ecco qui, inizia una nuova era anche per lui. D'ora in avanti, conclude, voglio mutare sistema e sarò il vostro amico, anzi il vostro servo. Quando avete bisogno venite da me e se questo vi incomoda chiamatemi da voi e io volerò in tutte le ore, in tutti i momenti. Sarò sempre vostro. O Signore, in presenza di cui mi trovo, tu sai che non mentisco. E proprio il coraggio, la pietà, la mitezza del nostro santo fecero pensare al re del Tigre Ubie che era arrivato il momento anche di una maggiore libertà di culto. Anzi, ben presto molte di quelle persone che lo avevano ascoltato tornarono al cattolicesimo, tra cui Gebre Michael, che era prima un monaco ortodosso etiope. Questo monaco, ordinato sacerdote ed entrato nella congregazione di San Vincenzo, suggellò, pensate, con il martirio nel 1855, quindi 6 anni dopo l'arrivo di San Giustino, suggellò con il martirio, dicevo, la sua ricerca della verità e il desiderio di una comunione tra la Chiesa Cattolica e quella etiope. E fu beatificato questo sacerdote il 31 ottobre del 1926. Nel frattempo, avendo maggior libertà di manovra, San Giustino de Jacobis estese il suo apostolato al nord-est del Tigre, popolato addirittura da tribù selvagge. E qui c'era da rischiare seriamente la vita. Pensate, a dorso di un mulo visitò anche diversi monasteri ai quali era affidata l'istruzione pubblica della scuola per invitarli alla comunione con Roma. Anche tra il popolo ottenne molte conversioni, diffondendo, pensate, in particolare la devozione del Santo Rosario. E proprio in questa maniera riuscì a fondare 6 piccole comunità che alla sua morte contavano 7.000 cattolici. E dove si fermava, diventava muratore, falegname, cuoco, cioè aiutava. Andava persino a fare legna nei boschi con grande sorpresa degli indigeni essendo quella fatica riservata alle donne o agli schiavi, purtroppo. E per confortare un malato non esitava a intraprendere una marcia pericolosa di notte, rischiando seriamente la vita. E arriviamo nel 1845, aveva 45 anni, si stabilì a Guala, presso l'Adigrat, dove fondò il Collegio dell'Immacolata per la formazione del clero etiope. Questo era un nuovo noviziato praticamente. E la Buona Salama, che era il capo della Chiesa ortodossa etiope di quel tempo, comunità ortodossa molto, molto numerosa nel paese, infatti anche oggi comprende circa il 45% degli abitanti, l'Etiopia oggi ha circa 102 milioni di abitanti, il 45% è della Chiesa copta ortodossa, un 35% dei musulmani e l'1% dei cattolici. Insomma, questo, la Buona Salama fremeva e ma sopportava che il re Ubie proteggesse i missionari cattolici. E proprio in Etiopia, essendoci allora un campo immenso da coltivare, mancando missionari, si decise la congregazione di Propaganda Fide a nominare padre Guglielmo Massaia, che poi sarà venerabile, era un cappuccino, lo nominò vicario apostolico dei Galla, cioè della parte meridionale del paese. Quindi a nord-est dell'Etiopia c'era praticamente il nostro santo. Invece a sud arrivava padre Guglielmo Massaia. E le due missioni si svilupparono quasi parallelamente, con alterne vicende, secondo gli umori dei principi che governavano le varie regioni, sempre in lotta tra loro per il sopravvento. E proprio a Guala, il venerabile padre Guglielmo Massaia fece gli esercizi spirituali con San Giustino, e nelle sue memorie così parla di lui, ma ci descrive anche, ci fa un ritratto molto preciso, no, di questo santo. Dice: «Vedere quell'uomo sempre grave e piacevole ad un tempo, parco nel vitto e semplice, modesto e disaderno nel vestito, cortese e caritatevole nelle maniere, del discorso sempre pronto a dire una parola buona, inseparabili dai suoi allievi, che egli trattava con la dolce autorità di padre e con l'affettuosa familiarità di fratello, sempre con essi nelle faccende, nel lavoro, nelle riflessioni, nella preghiera, vederlo celebrare la Santa Messa come un estatico, questo ci dà l'idea di come celebrava, assistere alle orazioni comuni con un raccoglimento e una pietà angelica, vederla insomma vivere una vita in cui era sposata la ritiratezza dell'anacoreta con lo zelo dell'apostolo, era per noi, dice il padre, una predica vivente, una figura unica. E adesso però, a parere di tutti, era giunto il momento che anche la prefettura apostolica dell'Etiopia del Nord avesse il suo vicario. Quindi il padre Massaia propone a Roma, per quel compito, proprio San Giustino, lo riteneva il più idoneo, anche perché era stimato, pensate, consultato persino dalla Chiesa copto-ortodossa dell'Etiopia. E Pio IX nominò quindi San Giustino vescovo di Nicopoli e vicario apostolico dell'Abissinia il 6 luglio del 1847. Ma il problema fu che padre Massaia dovette lottare la bellezza di 6 mesi per convincere San Giustino ad accettare questo ufficio di cui lui si considerava assolutamente indegno e incapace. Insomma, alla fine l'ordinazione ci fu il 7 gennaio 1849, pensate, di notte, durante la persecuzione che allora era in atto, perché c'era una guerra praticamente fra le varie regioni dell'Etiopia, tra musulmani, copti che si combattevano, insomma era un macello, e che aveva costretto il nostro santo a cercare rifugio a Massaua. E come avvenne questa ordinazione? C'erano 2 casse sovrapposte in una casa, formavano l'altare maggiore. Poi 2 preti etiopi, che non capivano il latino, fungevano da testimoni. C'era una sola mitra, un solo pastorale, che servivano successivamente ad entrambi. Eppure, benché vescovo, San Giustino continuò a condurre una vita del tutto simile a quella degli abitanti del paese, a tal punto che un giorno anche padre Massaia lo invitò ad usare vesti più adatte alla sua posizione di vescovo, anche più ricercate, ma egli continuò a conservare il suo essere servo per condurre tutti, ma tutti, fanciulli, malati, poveri, monaci, all'unità della fede della Chiesa Cattolica e nella salvezza. Ma qui, alla notizia che il nostro San Giustino era stato ordinato vescovo, l'Abuna Salama, cioè il capo della Chiesa ortodossa etiope, che aveva un enorme potere, intensificò le sue ostilità. Il collegio della missione da Guala fu costretto a trasferirsi ad Alitiena e il nostro santo, appena lo seppe, partì subito da Massawa per condividere il destino dei suoi novizi, soprattutto per continuare a istruirli, a formarli, portandoli con sé nelle peregrinazioni apostoliche. Dobbiamo dire che il suo fermo proposito di preparare un clero etiope non era condiviso da altri confratelli, forse perché pensavano che allora non fossero ancora pronti, ma il suo esempio fu invece approvato e seguito da padre Massaia tra i Galli. In effetti lui diceva che un prete dell'Etiope conosce i costumi della sua gente, la cultura, quindi sa anche integrarsi meglio, anche essere più ascoltato. E qui proprio nella prima ordinazione di padre Massaia, tra questi il 1 gennaio del 1851, impose le mani anche al beato Gebre Michael, il quale, dicevamo prima, incatenato con altri nella città di Adua, aveva detto al suo persecutore: «Mi sento straziato per le torture, ma preferisco il dolore e la morte alla colpa e alla vergogna dei rinnegati». Quindi era un totale atto di fede verso Gesù e la Chiesa Cattolica. Intanto, tra un colpo di Stato e l'altro, nel 1854, Casa, signore di Guarà, quindi di una regione dell'Etiopia, approfittando dell'anarchia che c'era in quel momento nel paese, riuscì a sconfiggere i capi rivali e a proclamarsi unico imperatore con il nome di Teodoro II. Il nuovo imperatore, d'accordo con Abuna Salama, nel luglio dello stesso anno emanò anche un editto che obbligava il popolo ad aderire alla Chiesa copto-ortodossa etiope, parliamo chiaramente di tutti i cristiani, altrimenti i missionari cattolici avrebbero dovuto subito lasciare l'Etiopia, ma i missionari ignorarono l'imposizione e molti di loro furono arrestati. E qui il nostro santo concepì un progetto che era anche rischiosissimo, cioè di recarsi alla corte del re per trattare e far liberare i cattolici perseguitati e anche condannati a morte, sia da lui che dal capo della chiesa etiope, della chiesa copto-ortodossa etiope, dall'Abuna Salama. L'accoglienza, lo sapeva, non fu delle migliori e fu arrestato, gettato in prigione con diversi cattolici e si salvò dalla pena di morte solo perché proprio il capo della Chiesa ortodossa etiope aveva rifiutato di assumersi davanti a Dio la responsabilità della sua morte. Scrisse infatti così a Teodoro II: «Caccia via l'Abuna Jacob», cioè padre Jacob, che era De Jacobis, «ma non l'uccidere, è un santo e nessuno osserva meglio di lui la legge del Signore». Quindi fu espulso e condotto verso il Sennar, ma durante il viaggio riuscì a guadagnarsi l'animo della sua scorta e a rifugiarsi in Alai, dove era stato trasferito il collegio dei suoi novizi. Qui continuò la formazione dei giovani aspiranti, ma essendo ricercato dovette ripiegare verso la costa, dove la morte lo colse per sfinimento, possiamo dire, il 31 luglio 1860. Aveva 60 anni, morì alle 3 del pomeriggio, come aveva predetto, mesi prima, nella vallata dell'Aligede, era in Eritrea. Allora, quel giorno, con la testa appoggiata ad un sasso, circondato da pochi fedelissimi discepoli, aveva detto: «Vi raccomando di sperare molto, di essere forti nella fede, di crescere continuamente nella carità e di evitare la maldicenza. Pensate che dovete essere la luce dell'Etiopia». E Pio XII lo beatificò il 25 giugno 1939 e poi il 26 ottobre del 1975 Paolo VI lo fece santo. Le sue reliquie sono venerate a Ebo, in Etiopia, dove è voluto rimanere, dove furono tumulate le sue spoglie. E concludo con le parole con il quale lo salutò il venerabile padre Massaia e, dicendo di lui, disse che era il fondatore, San Giustino, della missione abissina, l'apostolo infaticabile dell'Africa orientale, il maestro dei missionari, il tipo del coraggio e dell'abnegazione indispensabile alla buona riuscita del ministero sacro tra quella gente.